Scuoti il tiranno Giove, spezza la rea catena, anima oppressa. Sono poi tutte le bellezze affine, un medesimo cil, stelle ad un cuore. Nessuna pur, il piove in flussi amari, l'altra dolce influenza a lui diluvia. Pagherò con lo sprezzo che in me crudele. Lascerò quel volto. Lo lascerò, sarò seduto in fido per vendicarmi. Infin così ho risolto.